En vivo, Radio Caso. Marca, firme con Chufo, saca la pelota con Chufo, con Chufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tentel, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hola Ana de Raimondo, sé que estás en Napoli, no sé qué temperatura hace ahí, pero sé que son las 10 de la noche en Napoli, ¿verdad? Buenos Aires, ¿qué hora es uno, Florencia? ¿Nos escuchamos? ¿Estás ahí? Yo creo que yo te escucho muy bien, entonces diciamolo subito, questo è un programma nato in maniera molto spontanea, quasi come un'urgenza per celebrare la complessità di Diego Armando Maradona e per in qualche modo celebrare anche i nostri amori variati e multipli che proviamo per quest'uomo, per questa figura, per questa icona. Esatto. Abbiamo deciso con Florencia di unire Napoli e Buenos Aires, che sono anche le due città, per celebrare questo cuore unico che però in realtà è molto multiplo. Exacto, estamos empezando esta transmisión estéreo a dos ciudades, en Napoli y Buenos Aires. Estoy muy contenta de compartir esta transmisión con Ana Raimondo. Hace mucho que queremos hacer algo. Con Radio Caso. Teníamos ganas de hacer algo juntas. Y bueno, acá estamos en este experimento bilingüe para homenajear y recordar y comunicarnos en directo con Diego Armando Maradona. Que esa estrella cayera en Argentina. Sos único. Vamos a estar pasando mensajes de nuestra audiencia que ya nos estuvieron escribiendo por las redes de Radio Caso y también a nuestros mensajes personales, a nuestros WhatsApps, en muchos idiomas. Bueno, no, en dos, es mentira. Es bilingüe esta transmisión. Ascoltando però dappertutto, sappiamo che ci stanno ascoltando da Napoli, cioè sappiamo che ci stanno ascoltando da Buenos Aires, addirittura Florencia dall'Olanda. Cioè, ci sono geografie inaspettate nei nostri ascoltatori e nelle nostre ascoltatrici oggi. E come dicevi tu, sarà in realtà un programma molto corale in cui appunto ci saranno dei messaggi vocali di nostri amici e amiche virtuali. E ci saranno anche interventi poi in diretta che vi annunceremo poco a poco perché ci piace creare comunque un poco di suspense. Ascoltiamo i primi interventi, Florencia. Exacto, vamos a escuchar el primer mensaje de esta transmisión coral para Diego Armando Maradona. Vamos. Diego, corazón, eras de otro planeta, pero tuvimos la suerte que esa estrella cayera en Argentina. Sos único, sos nuestro eternamente. Te amo. Bueno, mucho amor para Diego. Tenemos más mensajes. Me estoy conectando porque además de estar conduciendo, yo estoy haciendo la técnica. Entonces tengo que buscar los mensajes uno a uno por las distintas redes que fueron llegando. Así que quizás esto se demore unos instantes. Però tenemos un secondo chiaro, messaggio. Perché dobbiamo dire che questa emissione un po' spontanea, così un po' do it yourself, in realtà la sta gestendo Florencia da Buenos Aires con la tecnica. E ora ascolteremo altre voci La prima voce appunto ci anticipava l'amore, che sarà in realtà il leitmotiv di questo programma, l'amore verso Diego Armando Maradona. Proviamo a vedere se riusciamo ad ascoltare Carmen. Ciao Anna, sono Iris e ti mando questo messaggio da Bruxelles. Per me questo messaggio è un dovere di memoria, alla mia infanzia, alla felicità di quegli anni Ottanta in cui Maradona rappresentava la possibilità, tutto era possibile. E, è un valore affettivo. E Carmelo Bene diceva che un dribbling di Maradona valeva quanto tutto il teatro di Shakespeare. E per me è un po' così, perché stiamo sempre a dribblare nelle nostre vite, poi magari non facciamo gol e poi riprendiamo fiato e quando c'è bisogno ridribbliamo di nuovo. Precioso también, se repite nuestro amor eterno. Tenemos más, tenemos más. En esta era Iris, vamos con Carmen. No sé cuál es Carmen. tenemos otro mensaje. Diego, nella vita è certamente per chiunque molto difficile avere una certezza. Abbiamo molti dubbi e poche certezze. Sì. C'è però una cosa che alla tua età, oggi da uomo, tu dici, beh, questa cosa l'ho capita. C'è una cosa che sei sicuro di aver capito? Che lo capisco. Che gli Stati Uniti, sì, comandano il mondo, credono di comandare il mondo, però noi non siamo tutti americani. Questo è Maradona, questo è ¿Qué dice Ana? Ese mensaje. Un aplauso para lo que Diego quiere decir, que no somos todos americanos. Esa es, parece, la única actitud de Diego Armando Maradona y creo que la compartimos. Condividiamo completamente questa idea che non siamo tutti tutti americani. E come avete ascoltato, quindi non era Carmen, ma era Diego Armando Maradona. Quiero pedirle perdón a Carmen, que no encuentro su mensaje. Pero ¿qué nos había dicho? Ahora lo vamos a encontrar. De todas maneras, lo que queramos descartar este audio, que de repente es Carmen que nos ha enviado, porque appunto Diego Armando Maradona queremos también oír su voz. Y Carmen ci ha mandato questo audio da ascoltare insieme. Ma quindi, in realtà, perché abbiamo deciso di fare questo programma? Perché abbiamo deciso di fare questo programma? Perché chiediamo tanto a Maradona? Perché me lo preguntas a me? Perché, mira, io nací en 1986, che, sí, sí, bueno, è un anno in cui Diego Maradona nos regalò la Copa del Mundo. E in mia generazione, por lo menos, recuerdo de mi infancia tener al menos de tres para arriba, tres compañeros llamados Diego, por lo menos en cada grado en el que asistí. Algunos Diego Armando, inclusive, ahí en Lanús, en mi escuela. Y bueno, eso me acompañó durante toda mi infancia, los relatos sobre lo increíble que fue ese año en el que fue mi nacimiento. Y bueno, en fin, el Mundial 90, toda mi... Sí. Y por supuesto una familia muy fanática de Maradona, muy futbolera. Yo porque lo quiero, por eso, porque me acompañó siempre. ¿Y vos, Ana, tenés alguna historia con Maradona? Lo stai dicendo in realtà risuona completamente anche a Napoli. Appunto diceva Florenza che lei è nata nell'86 e che molti dei suoi colleghi, molti dei suoi amici a scuola si chiamavano Diego, no? In omaggio a Diego Armando Maradona. E noi ci stiamo chiedendo perché stiamo facendo questo programma, perché abbiamo questo amore incondizionato per Diego Armando Maradona. Ci sarebbero tantissime ragioni e Florenza è partita da questo aneddoto, questo fatto, che questa vicinanza comunque verso questo personaggio. Invece mio fratello è nato nell'87 e come napoletani che stanno ascoltando ora questo programma ci ricordiamo tutti, insomma è stato l'anno in cui Napoli ha vinto lo scudetto grazie soprattutto a Diego Armando Maradona, e mio fratello si chiama Diego. E leggendo l'altro giorno il giornale, appunto c'era un articolo che diceva che dall'86 all'87 sono nati tipo 500 bambini a Napoli, sono stati chiamati Diego. alcuni di loro Diego Armando e addirittura uno Diego Armando Maradona. E se tu, Diego Armando Maradona, per caso ci stai ascoltando ora su Radio Caso, perché noi crediamo anche alle coincidenze più assurde, ti prego facci un cenno, dici qualcosa. In questo momento è entrata Tenemos muchos efectos de audio. Alice, chiudi il microfono. Voilà. Alice si è manifestata rumorosamente perché noi napoletani, come gli argentini, ci piace manifestarci col rumore, quindi va benissimo così. Tra poco ve la Totalmente, presenteremo. acaba de entrar Alice, ¿cómo se dice? A nuestra conversación y ese efecto de audio tan, tan hermoso, tan esperado y tan fantasmagórico fue su invocación inicial para Diego Armando. Quiero imaginar. Esattamente. Ovviamente le ragioni per le quali ci siamo decise a fare questo omaggio a Diego Armando Maradona vanno anche al di là del personale. Siamo femministe e crediamo che il personale è politico, però va al di là di tutto ciò. A noi piace osannare, in qualche modo usiamo le parole forti, celebrare la complessità di questo personaggio, anche perché è stato un personaggio che ha riscattato Napoli, ha riscattato l'Argentina, ha riscattato il Sud. E questo è quello che secondo me ci interessa fare. Facciamo un applauso con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Vai, Corelli, Otro aplauso, somos muy pocas. applaudiamo da sole. No, e parlo di questo elemento più politico, perché appunto Alice Izzo è una delle traduttrici che fra poco interverrà, che ha tradotto un articolo che spiega anche come è possibile essere femministe e maradoniane, ma ci torneremo tra poco. Florenza, continuiamo a fare la nostra carrellata di messaggi audio. Sí, tenemos más mensajes de audio de la audiencia, así que vamos a escuchar un poco antes de pasar al tema que nos convoca sobre el texto que tradujo Alici. Scusami Alessia, ti ricordo che i tifosi del Napoli, grazie papi, senti Alessia, ricordo che i tifosi del Napoli hanno dedicato a Maradona una frase molto bella che io ricordi, quando hanno detto Maradona ottene e to dà, significa che Maradona ha la sostanza e tutta la sostanza che ha lo dà al Napoli. Ciao piccola. Bueno, mi nombre es Matías Rosas. Hablo los saludos desde acá, desde Argentina. Y me dicen que diga algunas palabras para Diego. ¿Qué puedo decir? Más que gracias. Diego, gracias, gracias, gracias por haberme hecho pasar los 10 mejores años de mi vida, por haber estado trabajando con la persona más importante del mundo, con la persona con el corazón más grande de todo el mundo. Y que bueno, que hay veces que la vida es muy injusta. Y que te fuiste de una manera que no era la manera que querías. Pero bueno, te voy a recordar como siempre, con esa sonrisa. Te voy a recordar yendo a la contracumbre contra Hush. En el cual yo casi hacía poquito que empezaba a trabajar y nada, no sabía mucho de política y bueno, y de repente terminé arriba del tren de Flecha, en el Flecha de Plata, en el tren de Evita y Perón, ubicando al futuro presidente en ese momento de Bolivia, Evo Morales, junto a Silvio Rodríguez, Teresa Parodi, y bueno, y otros, y tantos otros. junto con Emil Culturica, que estuvo filmando la película, arriba también del tren, que, o sea que esto es una anécdota que también la pueden ver en la película de Emil Culturica, que hizo de Diego. Pero solamente puedo decirte gracias, Diego. Gracias por tanto. Un abrazo grande. Emozionante. Allora, Maradona è entrato in casa nostra prepotentemente quando il mio figlio più piccolo doveva imparare a fare la pipì nel water. Siccome non voleva impararlo, abbiamo messo la foto di Maradona in bagno, perché a lui piaceva tantissimo giocare a calcio e gli piaceva anche Maradona. Allora ogni volta si sedeva e guardava la foto di Maradona. Ti ricordi, Ivan? Sì, sì. E quando faceva la pipì nel water, che cosa diceva? Gol! Gol! E adesso quando gioca a calcio penso sempre a Maradona. È vero, Ivan? Ciao a tutti! Cosa? Di ciao pure tu. Ciao pure tu. Ti piace giocare a calcio? Sì. E quando giochi a calcio come ti chiami? Maradona. Gol. A ver si entendí bien. Este niño, Iván, vale, me parece, aprendió a hacer pipí gracias a una foto de Maradona que le pusieron enfrente del inodoro. Y cuando él iba al baño, gritaba ¡gol! ¿Y? Bueno, mi italiano no es muy perfecto, pero... Claro, es perfecto, ¿ves? Un único corazón, nos entendemos, ¿sabes? Que, entonces, como ves, escuchado hasta ahora, es un programa que quiere ser multidioma, multivocal, multiamoroso, poliamoroso, somos poliamorosos con Maradona. Totalmente. Este es un programa poliamoroso, Florencia. Entonces, no sé, Florencia, ¿seguimos con los mensajes vocales o escuchamos? Invitamos oficialmente a Alicia Izzo a... Bueno, para mí ya tenemos que darle paso a Alicia, que está acá escuchando mensajes con nosotros. Después podemos seguir, tenemos un montón de mensajes, vamos a seguir dosificándolos. Entonces, Alice, per favore, attiva il microfono, perché noi stiamo facendo radio, siamo veramente alla moda in questo momento. Ecco, noi stiamo ascoltando anche casa di Alice, ascoltiamo che qualcuno vuole fare un caffè. Da dove viene questo suono del caffè? Non è casa mia, purtroppo dopo una certa ora non si fa più il caffè, però sento anch'io una voce. Marcello, metti il tuo microfono, perché no. Sentiamo che a casa dobbiamo fare un caffè alle 10:30 ed è abbastanza tragico. Dopo le 8 non si può fare il caffè. Allora, e raga, quindi... io però vorrei fare, prima di cominciare, una cosa che ho promesso alle mie compagne, ovvero... Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, mamma. Perché mi batte il coraggio, ho visto Maradona, ho visto Maradona, e mamma, innamorata fantastico. Allora è molto chiamativo, è molto chiamativo che il migliore, diciamocelo, Google Meet non permette i coro. Las va alternando y no cantan juntas nunca. Canta una o la otra, pero fue muy hermoso, sumado a los aplausos que saturan. Esta es una transmisión muy, muy experimental. Me hace feliz. Experimental, muy experimental. Hecha por el amor, nada más que por el amor. E quindi Alice Izzo, di cui sentiamo la canzone, la voce bellissima cantare Oh mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon, che era dedicata ovviamente a Maradona, e parlava delle compagne perché è una delle attiviste di Ni Una Menos qui a Napoli. E dobbiamo dire che infatti a parte Maradona, unico corazón, un altro solo corazón, che è il movimento Ni Una Menos, che lega fortemente Madrid, Buenos Aires, con in questo caso anche Napoli. Sappiamo che Ni Una Menos è veramente un movimento internazionale, non esiste solo a Napoli e a Buenos Aires, però all'occorrenza stiamo parlando di due città, due geografie e di un movimento che esiste in entrambe le città. Alice, noi siamo molto felici di averti oggi qui con noi, perché come anticipavamo all'inizio, tu hai tradotto insieme alla tua compagna Francesca De Rosa un articolo scritto da alcune autrici argentine, Nadia Fink, Lisbeth Montagni e Camilla Parodi, perché amiamo così tanto Diego se siamo femministe. Io prima di lasciarti la parola chiederei a Florencia magari di riprendere un attimo rapidamente in spagnolo quello che ho appena detto. Rapidamente. Contextualizzare. Esatto. Totalmente. Alice es parte de Ni Una Menos en Napoli, lo cual nos une, por supuesto, también con este corazón entre dos ciudades. Ella tradujo recientemente el artículo ¿Por qué queremos tanto a Diego si somos feministas?, que lo escribieron Nadia Fink, Lisbeth Montaña y Camila Parodi acá desde Argentina. Y bueno, fue un artículo que desató varias polémicas, tanto aquí como allí, con lo cual quisiéramos retomar algunos conceptos, porque somos feministas, somos maradonianas. Y tenemos un corazón muy grande para el Diego. Bueno. Alice, Florencia, ¿vi va di leggerci l'articolo? Podemos leer un poco del artículo. En questo contesto sarebbe bello averlo nelle due lingue, quindi approfittiamo delle vostre voci linde. Vamos a intentarlo. ¿Estamos listas, Alice? Andiamo, vai, Flor. ¿Por qué queremos tanto a Diego si somos feministas? Esta será la primera y la última nota en la que daremos explicaciones sobre nuestros sentimientos y elecciones. Para nosotras, el feminismo es mucho más que una causa por la lucha de derechos específicos. Para nosotras, el feminismo es un modo de mirar, amar, disfrutar y habitar nuestras vidas. Y nuestras vidas no son más que permanentes contradicciones. Por eso, en las siguientes palabras, dedicamos unas reflexiones a estos sentimientos, elecciones y contradicciones para reforzar lo que somos, feministas, populares y maradonianas. Questa sarà la prima e l'ultima volta che daremo spiegazioni sul perché dei nostri sentimenti e delle nostre scelte. Per noi il femminismo è molto più che una lotta per una causa e per degli specifici diritti. Per noi il femminismo è un modo di guardare, di amare, di godersi e di vivere la nostra vita. E le nostre vite non sono altro che continue contraddizioni. Ed è per questo che dedichiamo le nostre parole alle riflessioni di questi sentimenti, delle scelte e delle contraddizioni che viviamo, in modo da rafforzare quello che siamo, femministe, popolari e amanti di Maradona. Tenemos memoria y no olvidamos la violencia que ha ejercido contra muchas mujeres. Lo tenemos claro y sabemos que es parte de la sociedad y el futuro por el que luchamos. Que ser macho no signifique más tener privilegios ni ejercer violencia alguna contra el cuerpo de las mujeres. Vogliamo che l'essere maschi non sia una questione di potere né di forza fisica, ma in mezzo a tanto rumore che soffoca le voci dei poveri, non dimentichiamo che Diego e il suo calcio puntavano sempre a sud. Fin dalla nascita, questo era il suo destino e ha sempre saputo bene da dove veniva e dove voleva puntare. È uscito dal fango e non ha mai dimenticato le sue origini. La coscienza di classe l'ha forgiato nei luoghi dove ha perfezionato la sua arte con il pallone e con gli ultimi, i dimenticati. Ha trasformato il calcio in un palcoscenico per rendere visibile l'invisibile. Si hablamos de Diego, hablamos de pueblo, ese que siempre lo acompañó, no solo por sus jugadas, sino porque los barrios humildes se sentían representados en su rebeldía y también en sus decisiones. È stato anche capace di dare le spalle a questo calcio truccato, come nel momento in cui se n'è andato dal Barcellona per dare gloria a una squadra del sud dell'Italia, il grande Napoli, e togliere l'egemonia ai ricchi del nord, alla potente Juventus di Platini, al potente Milan di Berlusconi. Diego ci ha fatto faccia e faccia ai più potenti e ha proiettato la sua voce verso il collettivo. Ha saputo anche voltare le spalle a... Ah, l'ho fatto. se rebeló contra la maquinaria y la multinacional FIFA y la Conmebol porque no aceptaba el juego de los poderosos y prefirió poner su posición política por delante. Il costo è stato alto. Sono stati quegli stessi uomini potenti a tagliargli le gambe del Mondiale nel 94 e abbiamo sofferto tutti. Tuttavia, dico, non ha imparato la lezione. La sua disobbedienza è stata quella di resistere al blocco contro Cuba, sostenere la rivoluzione boliviana in Venezuela, giocare a calcio con Evo e sostenere la pace in Colombia, sempre quando le voci sono monotiepide. Desde hace unos años a esta parte, además, para los jugadores multimillonarios, participar de la selección muchas veces no es una prioridad. Hay demasiados intereses en juego para abandonar partidos en sus clubes. Y ahí vuelve el Diego, en una imagen en Italia el 90, llorando ante las cámaras la derrota de un mundial que jugó aún físicamente a medias. Bueno, el artículo sigue y por supuesto lo pueden encontrar en internet para leer completo, porque hay muchos testimonios, es bastante enriquecedor. Pero creo que ya se llevan una idea de por dónde anda. Creo que nos están mandando también un mensaje. Ahora en unos minutos lo podemos escuchar. ¿Quieren ver qué piensa nuestra audiencia sobre esto? Si se puede ser claro, feminista y maradoniana. Yo estoy también haciendo un video en el Facebook, en directa Facebook, y tenemos 5 personas que nos están... Bien. ¡Qué horror! No, esto es radio, Raimondo. Al di là di tutto questo, io pensavo che questo testo è veramente molto potente. Io sono femminista e sono maradoniana e ieri, che era il 25 novembre, quindi il giorno contro la violenza alle donne, nonostante ciò, direi quasi parallelamente a ciò, io sono stata molto triste rispetto alla notizia della morte di Diego Maradona e ho voluto esprimerlo a mio modo. E ho visto che purtroppo su Facebook, sulle reti sociali in generale, ci sono stati molti commenti che si rispetto a questa espressione d'amore verso Maradona il giorno della violenza il giorno contro la violenza sulle donne. E per me questa è una cosa un po' da problematizzare. E quindi per questo sono molto felice che Alice sia con noi, perché magari ci può anche raccontare un po', visto che lei ha tradotto questo testo e quindi ha assunto questa responsabilità, se ha avuto delle reazioni nell'ambito femminista, insomma, sono curiosa. Gesù! Allora, ci tengo molto a precisare che io e le mie compagne, quando abbiamo ricevuto la notizia, eravamo in piazza. Abbiamo organizzato questo 25 novembre con tanta forza e stringendoci tutte quante assieme anche in questo momento di totale precarietà, di lockdown, perlomeno in Campania, dove ricevuta la notizia non abbiamo potuto abbracciarci fisicamente, però eravamo tutte in piazza lì insieme e sapevamo bene di che cosa si parlava e qual era la portata di questo lutto, che è un lutto intergenerazionale, un lutto transnazionale ed è un lutto che stiamo ancora vivendo. Io sono molto emozionata, scusatemi. Ieri Napoli era una festa. Era una festa di addio ed era una festa di gratitudine per tutto quello che Diego ha rappresentato e continuerà a rappresentare per questa terra. E ci tengo molto a precisare che noi appunto eravamo in piazza, abbiamo organizzato un presidio per il 25 novembre, che è appunto la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, di genere e dei generi. E esattamente, diciamo, la notte del 25 è stata una notte di veglia per tutte noi, per tutto noi. Ci siamo ritrovate la mattina dopo, veramente alle prime luci del mattino, a dover... A pensare di dover prendere parola rispetto a questo grande lutto che non solo Napoli, non solo l'Argentina, ma il Sud, secondo noi, sta vivendo in questo momento. E, abbiamo deciso di tradurre un articolo che secondo noi riusciva a restituire tutta la complessità, non solo di che cosa significa il calcio nella cultura popolare del sud del mondo, ma anche che cosa ha significato Diego per Napoli e per l'Argentina. E come diceva Anna, diciamo che ci siamo trovate un po' di haters a cui dover rispondere. Non voglio che questa sia un'occasione in cui rispondiamo a queste provocazioni e questi attacchi. Credo che comunque il non leggere quello che ha significato Diego per il riscatto sociale delle nostre terre bruciate, oppresse per troppo tempo, non credo che questo sia il momento per rispondere a queste provocazioni. Però io sento di dire che questo incontro transnazionale Argentina-Napoli, non so le altre persone che ci ascoltano da dove stanno ascoltando, penso che sia chiarissimo che cosa ha significato Diego per tutte noi e per il grande riscatto sociale che ha avuto la nostra terra grazie a lui e per tutte le persone che a Napoli si dice così, ci hanno levato schiaffa faccia. Totalmente, grazie Diego. Ci Diego. Ha tolto. Gracias, Steffi, Diego. Lo que estamos obviamente conversando es sobre las tensiones que se provocaron este 25 de noviembre entre el día en el que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres por parte de los varones, de hecho la violencia de género, y la muerte de este ídolo popular que tiene en su haber también una historia bastante compleja con sus aciertos y sus desaciertos y de hecho situaciones de violencia que son inaprobables, pero sin embargo, con todas esas contradicciones y esas tensiones, se sintió mucho en todo el movimiento, bueno, el movimiento feminista y en la sociedad en general, el luto esta noche del 25 de noviembre. Y un poco con esa premisa hicimos unas preguntas ahí en nuestras redes sobre este tema, si se podía ser feminista y maradoniana, también teniendo en cuenta la historia violenta de nuestro querido Diego. Y tenemos algunas respuestas. Quería compartir con ustedes un mensaje en particular que nos llegó de nuestra audiencia. A ver, denme un segundito. Cuando me preguntan si se puede ser feminista y maradoniana, pienso que ¿por qué no se podría? En realidad, me parece que puedo amar a Maradona entendiendo todos sus errores, sus graves errores, de los que algunos se hizo cargo y los que no. Para mí, amar a Maradona no es avalar prácticas que considero violentas, no es avalar la violencia de género o conductas machistas. Más allá de que me replanteo todo el tiempo mis propias conductas machistas, que las tengo y que las vivo negociando y criticando y resignificando. Creo que pensar en un feminismo, o para mí el feminismo en el que me gusta, el que me gusta habitar, es un feminismo que amplía derechos, que te hace más libre. Y bueno, pienso que está bueno esa posibilidad de pensarnos en contradicción, en el ejercicio crítico, y que Maradona y el feminismo no son dos conjuntos incompatibles, por lo menos para los que pensamos que Maradona es parte de nuestra identidad y que lo va a ser así hasta el resto de nuestros días. El tema es súper complejo, ¿no? También porque hay como otros factores que vamos a estar hablando también más adelante, que por ahí tienen que ver no tanto con su situación particular en cuanto a las mujeres, sino también sus componentes de clase y un montón de otras cosas que son quizás más compatibles con luchas no hegemónicas que también son parte de los valores feministas y que podemos seguir desmenuzando. Pero me parece que sobre todo hay que tener en cuenta que es una relación súper compleja y que de ninguna manera puede impedir el amor. Claro, io vorrei aggiungere, sono completamente d'accordo con voi, con quello che la compagna argentina, di cui non conosco il nome, ha appena detto anche nel messaggio audio. Io quello che mi sento di dire è che, come dicono anche le autrici dell'articolo, noi non ci dobbiamo scusare di niente, non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. E da aggiungere un'altra cosa, gli affetti sono complessi e non devono essere politicamente corretti, per me almeno. E come terza cosa, io sono femminista perché non mi interessano i dogmi, cioè proprio per questo lo sono, una delle ragioni per le quali sono femminista è perché non voglio essere dogmatica, quindi se poi mi dicono come devo essere come femminista c'è qualche problema. Questo piccolo, con due parole, femminismo decoloniale, penso che Françoise Berger dice tutto con queste due parole, femminismo decoloniale. per me. Non lo so, Florenzia, noi ringraziamo tantissimo Alice Izzo che grazie, è qui con noi. Alice. Alice, se vuoi restare con noi sei benvenuta, se vuoi resta, ci fa piacere. Mira, tengo un mensaje también respecto a esta dupla. Grazie, que hiciste. Gracias, raga, vi ascolto y buena transmisión. Gracias. Gracias. Ana, te quiero mostrar otro mensaje que nos llega de la audiencia respecto también a esta dupla que hiciste de feminismo decolonial. Me interesa compartir un mensaje de una compañera. Porque en realidad el feminismo no se lo puede pensar sin la cuestión de clase. Lo que están diciendo las feministas maradonianas de alguna manera es que el feminismo no es solamente la lucha por los derechos de las mujeres, sino por las mujeres pobres, digamos. Y que Diego, al margen de digamos, toda su condición de privilegio por ser un macho, y con todo lo que eso conllevó, representó a la clase obrera de lleno y que ellas construyen ese feminismo a partir de esa mirada de clase. Estamos todas de acuerdo, claro. Chicas. Como un elemento en più, diceva quest'altra donna al messaggio vocale, quello di classe. E forse ad alcune femministe all'ascolto, uomini e donne poco importa, ma femministe dell'anima, risuona anche questa idea di intersezionalità, no? Che non siamo soltanto donne, ma occupiamo diversi spazi sociali di potere, quindi ovviamente cioè sono completamente d'accordo anche su questa nota. Qui con noi abbiamo il giornalista napoletano Marcello Anselmo e l'autore napoletano Marco Ilardo. Non so se voi volete già cominciare a reagire rispetto a quello che stiamo dicendo, oppure se sì, sapete che dovete soltanto attivare il microfono. Non ci sono misteri, stiamo facendo una radio casera, no, casalinga, sì, domestica. Guarda, cara Anna, cara Florencia, muchas gracias. Credo che sia importante sottolineare quest'ultimo messaggio che abbiamo avuto sulla questione di classe, perché il femminismo non è solo una questione di genere o di parte, ma una questione di classe. Probabilmente diciamo, la scomparsa di Diego e tutta la eco che c'è stata in questi pochi giorni, sottolinea in Argentina come a Napoli, ma come in tutto il mondo, io credo, la questione della riproposizione della questione di classe. Cioè, Diego è stato uno che ha messo la mano sul pallone per mettere in porta il primo gol e ha fatto il capolavoro nel gol del secolo, no? Nel calcio. Il calcio adesso, rispetto a quello che era quando Maradona da solo ha vinto i mondiali, è un'altra cosa. Cioè, Maradona non ha guadagnato nessun soldo comparabile a quello che guadagna un medio giocatore di Champions League o di, come si dice, del campionato inglese o del campionato italiano. Ha guadagnato dei soldi, li ha fatti, poi ha fatto la sua vita. Molta vergogna andrebbe detta su chi ha denigrato il suo aspetto privato. Chi se ne frega, non ha fatto male a nessuno, anzi ha solo dato un esempio. Per questo io ritorno anche sull'intervento che è stato fatto prima. A Napoli non c'è stata una festa, c'è stata un'esposizione di rabbia, un'esposizione di malinconia e un'esposizione di rispetto fuori lo Stadio San Paolo, anche con assembramenti che in tempo di pandemia fanno tanto scalpore, ma comunque non è una festa, è un'esposizione di rabbia. Un'esposizione di esigenza, di orgoglio che Maradona ha dato a Napoli come interpretazione di un sud ribelle, non di un sud asservito alle logiche del mercato calcistico, ove dicendo. Cioè, Maradona ha rotto gli schemi, diciamoci la verità, ha rotto ogni schema, anche il suo rivendicare le Falklands, ma le Falklands, alla fine la Thatcher ha vinto contro Videla che era un fascista, e ha fatto bene la Thatcher ad attaccare Videla e ad affondare l'incrociatore Belgrano alle Falkland, perché ha battuto una dittatura che ha fatto 30.000 desaparecidos. però ha attaccato anche il popolo argentino e Maradona ha interpretato l'idea del popolo argentino che si ribellava contro Videla. Questo è Maradona, non è le Falkland, è la ribellione di un popolo che è stato oppresso dal capitalismo americano di Kissinger, di Nixon, della dittatura di Videla, che è stata una delle più massacranti della storia contemporanea, e ha vinto da solo mettendoci la mano e facendo il gol più bello del secolo. Ritorno su questo perché a Napoli ovviamente Maradona per noi significa tantissimo, tant'è vero che diciamo alla fine degli anni 90 in un quartiere popolare come Montesanto si è occupato, grazie a Maurizio Braucci e ad altre persone, Maurizio Braucci sceneggiatore, scrittore, sceneggiatore di Gomorra e poi di tanti altri film e di tanti altri che siamo stati uomini e donne vicino a lui, abbiamo occupato un posto, un centro sociale di una struttura che era destinata a diventare un archivio dei documenti comunali dopo il terremoto dell'80 in questo quartiere, l'abbiamo occupata, l'abbiamo resa un posto, non un centro sociale occupato, diciamo, modello autonomia operaia, come, ma di ispirazione situazionista. E l'unico nome che ci è venuto è stato quello di Diego. Ce lo chiamiamo Diego Armando Maradona Montesanto, perché era l'unica cosa che ci metteva in collegamento col proletariato marginale che ci circondava. Ecco, qui era l'unico terreno di discussione. Ed è sempre stato, anche in continuità. Una pequeñísima pausa para les amigas porteños. Va a retomar justo la última parte de que cuenta Marcello. Marcello esta noche está con nosotros para contarnos cómo nació un ¿cómo se dice? Un centro ocupado, cultural, sí. Ocupado como centro social en una parte popular de Nápoles y lo decidieron de llamarlo Diego Armando Maradona porque era un territorio Montesanto. Montesanto para conectar con el territorio, con la gente. Entonces este nombre, esta icona, esta persona permitía una comunicación, un puente con todo el mundo y también con la gente, digamos, más humilde. Totalmente. Se entiende que es un centro cultural de base comunitaria que ocupan un edificio y esta idea de Diego Maradona como alguien que simboliza, pero también encarna al pueblo, ¿no? Porque no es ajeno a su historia, como un origen muy popular, claro, del cual vamos a estar hablando dentro de poco. Pero claramente sí, en este caso lo tomaron el nombre para vincularse con las personas con las que querían vincularse, con su pueblo. Marcello, dicevi? No, noi continuando nell'attività che abbiamo fatto al DAM, che Diego Armando Maradona Montesanto, portando una M di Maradona alla M di Montesanto, è stata quella lì di agire da un lato sull'infanzia, cioè lavorare con i bambini, lavorare recuperando e offrendo la possibilità ai bambini, figli e figlie del proletariato marginale di un quartiere popolare di Napoli, innamorati di Diego, usando il nome, dicendo qui si fanno attività che sono pensate per voi, sono elaborate per un'emancipazione, soprattutto un'emancipazione rispetto al fatalismo. Dall'altra parte facendo anche un'azione culturale di stampo radicale, cioè noi abbiamo fatto dei film, il film sovietico, ci abbiamo fatto vedere al proletariato marginale napoletano i film sovietici e loro venivano a vedere i film sovietici. Venivano a vedere Buster Keaton anche, non solo i film sovietici, venivano a vedere tutti quei film che non avevano possibilità di vedere altrove. E siamo durati alla fine 10 anni e più. Siamo cresciuti noi, ma noi siamo stati in collegamento con quell'esperienza che negli anni 70, nello stesso quartiere, era la mensa dei bambini proletari. Cioè il primo gruppo della sinistra rivoluzionaria italiana che ha pensato non tanto all'insurgenza armata, ma a dire come io faccio entrare tra il proletariato marginale, che non è il sottoproletariato, è il proletariato marginale, che in Argentina è un soggetto sociale molto chiaro, come lavorare sul fatto che bisogna emanciparsi da soli, non hai bisogno dell'avanguardia, non hai bisogno di idoli. Bertolt Brecht che diceva: beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Noi siamo andati in continuità con quell'esperienza che è Maradona, non è un eroe, è uno che sapeva giocare in maniera geniale al pallone, l'unico, e che infatti non si è mai messo come un cadiglio, no? Non è mai stato uno che ha detto vi insegno le cose, ma vi insegno a fare gol ai potenti. Cioè lui ha sempre fatto gol ai potenti, ha sempre svergognato quelle squadre, quelle robe, che non a caso è venuto a Napoli, si è andato da Barcellona, è venuto a Napoli, e Napoli comunque all'epoca era sfigatissima, cioè nel senso arriva nell'84, arriva all'ottavo posto, non significa un cazzo, e comunque arrivano 50.000 persone a vederlo lo San Paolo. A questo proposito, non so, è interessante quello che stai dicendo, Marcello, perché mi lega anche alla ragione per la quale qui c'è anche Marco Elardo, che appunto voleva raccontare anche un po', diciamo, la sua esperienza vissuta, no? Di quando Maradona arrivava al Napoli. Marcello ha detto una cosa molto interessante che dico in spagnolo, così mi rilego anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici da Buenos Aires. Marcello ha detto algo che, dimmi se mi equivoco, Marcello, però una cosa che acabas de decir che mi pare super interessante da me destacar è che Maradona nunca ha querido ser un ejemplo. Hablado antes del centro cultural Diego Armando Maradona a Montesanto, que era un espacio donde de acogida cultural. Has mencionado un cineforum en donde estaban películas soviéticas, películas de Buster Keaton para el pueblo, para todo el mundo. Y has mencionado también la mensa para las niñas y los niños en el barrio. Y has hablado del pueblo. Y has dicho que en Argentina, veía que Florencia estaba de acuerdo, en Argentina el pueblo es como también una clase social reconocida, ¿no? Y has hablado de Diego Armando Maradona como puente de conexión con el pueblo de Montesanto y como un jugador espectacular que pero nunca ha querido ser perfecto, nunca ha querido ser ejemplar. Estamos hablando entonces de cuando Diego Armando Maradona llega al Nápoles, cuando Diego arriva al Napoli. Marco Elardo, che è un autore napoletano, siamo molto contente di averlo anche qui con noi. Se attivi il microfono puoi entrare in dialogo. Hola. Con noi e puoi dirci appunto un po' le tue memorie rispetto a tutto quello che tu hai vissuto anche rispetto a Diego Armando Maradona. Hola, ciao. Ciao Anna. Hola. Ciao Florenzia, ciao Marcello. Già stavo pensando a sta cosa che io non sono nato nell'86 e neanche nell'87. Sono nato un poco prima, poi tu mi chiedi anche di parlare delle memorie, mi hai introdotto come Matusalemme, in realtà non sono poi così anziano, diciamo. Stavo entrando in un momento un po' particolare a proposito di ricordi. Io innanzitutto volevo dire che io sono anche femminista e maratoriano, se fondate un partito, ditemelo che mi iscrivo. Sto ricordando, diciamo, io non amo, diciamo, quando muore una persona famosa, sai, dove le persone si strappano i capelli o fare i post su Facebook, addio, una preghiera aperta. Quando ieri stavo vedendo un All News, quelli H24, è uscita la notizia, mi ha preso una specie di pugno allo stomaco, ma per un motivo diverso, perché come si sta dicendo in questo periodo, chi non è napoletano, chi non c'era in quel periodo non può capire cosa è stato Maradona per noi. È stata un'esperienza quotidiana che andava al di là del calcio, è stato un personaggio che si viveva tutti i giorni, è un pezzo di te che se ne va, è stato veramente un piccolo trauma da questo punto di vista. E qualcosa che appunto andava più del calcio. Il bello di Maradona era vederlo giocare. Io avevo l'abbonamento, andavo sempre allo stadio, mi sobbarcavo queste camminate andate e ritorno dalla collina del Vomero fino allo stadio, che all'andata è tutta discesa, ritorno, insomma, per chi conosce Napoli sa cosa significa. Ma era bello anche vedere le interviste a fine partita, che erano completamente diverse dagli automi che vediamo oggi parlare al termine della partita. Era un personaggio, come diceva giustamente Marcello prima, è stato amato, nonostante è diventato uno di noi, è stato amato dal popolo napoletano, nonostante il primo anno fu un mezzo disastro, ma da subito, perché è qualcosa che è andata da subito oltre il calcio. Per me Maradona non era un calciatore, per me Maradona era un artista, ed era un artista politico, come stiamo dicendo, quindi era qualcosa in più. Sarebbe potuto, se non faceva il calciatore, secondo me sarebbe stato un musicista, un poeta, un pittore. Aveva un talento particolare, come tutte le persone di talenti particolari, aveva anche una vita particolare, ma ditemi voi quanti artisti famosi che conoscete abbiano avuto una vita regolare, tra virgolette. Magari lascio il tempo se vuoi tradurre prima, poi vado avanti. C'è qualcosa Marco, da lo che sta dicendo muchas cosas, non voglio tradurre tutto, però una cosa che dice, che credo che è comune a tutte le persone che ci stanno ascoltando e a noi, me permetto di pensare anche per le altre, è che Maradona non era soltanto un giocatore, parte de nuestras vidas de una manera u otra, y justamente Marco dice era un super futbolor, no sé cómo se dice en español, futbolista, pero al mismo tiempo Marco dice era un artista, había podido ser un músico, había podido ser un artista, era un performer, claramente. Y también lo que decía Marco es que cuando tú escuchabas las entrevistas de Maradona después, escuchabas algo con chicha, ¿no? Con las cosas que escuchamos hoy en día después de los partidos. Totalmente. ¿Qué otra cosa? Stavo dicendo, e quindi è uno di famiglia. Oggi, per esempio, mi hanno colpito molto questi due giorni, oltre alla polemica sulla coincidenza del 25 novembre, la coincidenza con i morti per Covid, qualcosa di scandalizzato che si sia così addolorati per la morte di Maradona, e c'è chi parla della sua vita, chi parla di tante altre cose, ma non capiscono che per noi è napoletani, è come se fosse un parente, è come se fosse un fratello, è come se fosse... E purtroppo, diciamoci la verità, se ti muore un parente non vuol dire che noi non ce ne frega niente del resto, però assolutamente no, però sicuramente ci fa un altro effetto, è qualcosa che ti viene meno. Exacto, purtroppo siamo in un mondo digitale, del multitasking, ma continuiamo a ragionare monotasking, che non si può addolorare di Maradona e contemporaneamente addolorare dei morti di Covid e contemporaneamente essere femministi e celebrare il 25 novembre. Noi siamo umani, possiamo fare tutte queste cose, nessuna cosa esclude l'altra. E io ero triste per questo, ero contento per il 25 aprile, ero triste per i morti Covid. Riusciamo ancora a fare contemporaneamente, provare più sentimenti contemporaneamente, come faceva lui, come ci faceva provare lui e come non ci fanno provare oggi nel calcio e tante altre cose, diciamo la verità. Lo que está diciendo Marco, en realidad, Florencia, es un poco lo que queríamos anticipar al principio, porque hemos hablado de la complejidad del personaje de Maradona y del amor complejo, múltiplo y plural que nosotros podemos sentir hacia él. Como decía Marco, podemos sentir varias cosas al mismo tiempo, ser triste para los muertos del COVID, por ejemplo, no significa no poder ser de una manera casi más interpelados para la muerte de Maradona, porque lo sentimos como alguien familiar. Claro, que es complejo como una relación familiar también, que nos queremos y nos odiamos y nos parece que está mal como somos y nos parece que está bien como somos y sobre todo nos acompañamos. Pero entendí, o sea, bueno, nada, mi italiano no es perfecto, pero cuando dijo que el dolor por Maradona era un dolor familiar, lo entendí completamente porque es así, así de difícil. Exacto. Claro. Bueno. Muchas gracias, ¿podemos? Muchísimo a Marcello Anselmo y a Marco Lardo sí, y a Alice Izzo para estar con nosotros. Quindi ringraziamo tanto Marcello Anselmo, Marco Lardo e Alice Izzo qui da Napoli e ricordiamo che siamo su Radio Caso in ponte con Buenos Aires, con Florenza Curci e Radio Caso. Stiamo su Radio Caso voi ovviamente siete... Stiamo comunicandonos in diretto con il Diego, come podemos, de a poco, entre todos. E por supuesto Marcello, Marco e Alice potete restare con noi e intervenire qualora vi andasse dopo, altrimenti ci farà piacere sapervi comunque ancora con noi all'ascolto. Florencia, ¿cómo seguimos? ¿Cómo, no, cómo bueno, pasamos a Buenos Aires? Después de esta intensidad de napolitana, vamos directo a Buenos Aires porque hace un ratito se conectó a nuestra reunión Alejandro Mamani, que sí. Es miembro de Identidad Marrón y que hace, bueno, el 25 o ayer escribió un texto que me interpeló mucho en... Bueno, yo lo leí en Instagram, no sé si salió publicado en otro lado. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno que aceptaste. Un gusto porque no te conocí. Bueno, nada, eso. Qué genio, qué genio. Le escribí así como, che, qué buen texto, estamos a hacer un programa de radio, sumate, y acá está. Y encima lo atrasamos, le dijimos más temprano y todo se atrasó. Bueno, de qué bueno. Igual pasa muchísimo. Pasa todo el tiempo. Cero drama, ya, razón. Me encanta. No, igual, qué sé yo, capaz que es un re tema para analizar, ¿no? Digo, el Diego no planteó solamente un quiebre social, de hecho, inclusive ayer en el velatorio y todo, sino también quiebre dentro de movimientos sociales. En cuanto al debate, ¿no? O sea, sin ir más lejos, dentro de múltiples activismos, desde el feminismo hasta el campo popular, creo que es algo que claramente excede a la figura de una persona, sino que plantea como múltiples, o sea, aspectos, desde la cuestión temporal. De hecho, para muchas personas, el Diego no era el Diego en sí, sino era la posibilidad de abrazo con sus padres, era los recuerdos del momento, era una Argentina súper difícil. Yo, mientras leía historias ayer que me habían mandado, porque como el post relativamente como tuvo bastantes compartidos, y había gente que tipo comentaba como las oportunidades que se acuerdan de sus padres abrazándolo, era como en ese, que sus padres eran fríos todo el tiempo, salvo cuando había fútbol, entonces como tenían el nexo del abrazo y el fútbol, y el Diego claramente en el medio. Y es más allá, yo esto lo debatía con una de mis mejores amigas, el tema de, o sea, no voy a negar como todo el planteamiento de lo que se puede hacer respecto al Diego como persona y como actos, ¿no? Cuestionados desde muchos lugares. Ahora, lo que sí se puede plantear y ir más allá es qué genera socialmente y qué representó socialmente y que... Más allá de que mucha gente se está quejando actualmente en Twitter y en muchos otros lados, digo, es como el pueblo, tipo, el pueblo con una cuestión como una masa popular, termina como doblando una estructura legal como lo es el contexto de pandemia, ¿no? Y es básicamente eso, es como ayer tipo la gente estaba... Ahora no sabemos si en 14 días va a subir o no, posiblemente sí, los contagios respecto a COVID, eso no se puede evitar, pero claramente a nivel social es súper analizable el tema de que muchas de estas personas se estuvieron cuidando los últimos meses, o sea, estuvieron 6 meses encerrados, y esto fue un quiebre social que para muchos fue sentirse habilitados. Ahora, puede estar mal o puede estar bien, de hecho es contrasanitario, claramente lo es, pero es parte de nuestro contexto social. O sea, querer decirle a la gente que sienta lo que debería sentir para... No, me parece muy complicado, que de hecho eso es lo que veíamos ayer, veíamos mucha racionalidad diciendo qué es lo que deberíamos sentir o no. Y la verdad es que a mí, o sea, en lo personal, el fútbol no me toca ni de cerca, No, yo con respecto al Diego, no, no, hasta ayer, hasta hace como hasta lo que pasó, no era alguien que estaba presente, más allá de lo que podía ser una persona como un reality, ¿no? Como esto, ¿no? El Diego claramente era un artista de la cámara y te manejaba un tiempo Kardashian, pero en otro contexto. Era un como. Yo le planteaba a mis compañeros. Decime, sì. Voi cerco di non, voi, non tradurrò tutto quello che hai detto in italiano perché non è impossibile, non sono una traduttrice professionale, però una cosa che hai detto che secondo me può risuonare molto bene anche con le persone qui a Napoli è cosa genera socialmente Diego Maradona, cosa genera socialmente la morte di Diego Armando Maradona. Tu stai parlando da Buenos Aires, dove abbiamo visto delle scene anche qui di non so, migliaia e migliaia e migliaia di persone che subito dopo il lockdown si sono recate volontariamente, ovviamente spontaneamente, a visitare insomma, la tomba di Diego Armando Maradona. E tu dici sì, viviamo in questo contesto di pandemia e la gente comunque è andata a fare questo omaggio a Diego Armando Maradona. A Napoli è successa la stessa cosa. A Napoli siamo in lockdown completamente e nessuno ha potuto fermare le persone che sono andate veramente a rendere omaggio la mattina, la sera, la notte, tutto il tempo. È una cosa che anche unisce Napoli e Buenos Aires in questo momento. È algo che nos une. Este amor incondicionado completamente que nos lleva a ir también en un momento como este a honrar la fin, ¿no? La Sí, a muerte de Diego despedirlo. Armando Maradona. Ana, en Napoli están en lockdown, o sea, están de vuelta recluidos por la pandemia COVID, pero salieron a la Efectivamente. calle de todas maneras Nosotros estamos, a despedir sí, a no, Diego. nosotros estamos viviendo un lockdown en este momento, sí. Es más soft respecto a lo que tuvimos y creo a lo que ustedes también han tenido, pero no se podría salir para razones que no son sanitarias de primer Claro. necesidad. Bueno, Así que acá. se puede decir que este amor para Diego es una forma de necesidad primaria. Claro, bueno, un poco es lo que decía Alejandro, que a pesar de todo lo que, bueno, toda esta gente que salió ayer acá en Buenos Aires, que estuvo durante meses aislada, durante meses extrañando a su familia, haciendo un esfuerzo tremendo, rompió todo, o sea, dejó todo eso de lado para ir a despedir a Diego, y eso habla de una fuerza en esa relación muy, muy profunda. Que algo que me gustaba del texto Claro. que leí ayer, también me parece, digamos, como que el lugar donde uno es, de donde nace, es algo que nunca se saca de encima, me parece, es algo así. Y eso me conmovió mucho de tu texto, porque es verdad que o lo que yo no, tampoco sé nada de la vida, o sea, no sé mucho más de lo que sale en la televisión de la vida de Maradona, pero claramente hubo una transformación sustancial en sus posibilidades materiales, digamos. Pero sin embargo, hay algo de ese origen villero que no. Que permaneció hasta, bueno, hasta ayer, hasta el último día. Y me parece que en el símbolo de Maradona continúa. ¿No, Alejandro? Sí, quizás en Go. esto. Perdona, Jorge. No, Por favor, Ana. ¿Ana? vai, perdona. Después. No, no, no. Quizás esto del American Dream que tienen los Yankees, ¿no? Creo que Maradona representa bastante bien como un Argentinian Dream, ¿no? Como el sueño argentino, que es básicamente el pibe de clase popular que claramente no es blanco, está en una condición de pocas probabilidades de realmente como su vida plantea un ascenso social y con picardía en gran parte, talento en otra y chamuyo y muchos errores, logra pegarla, ¿no? Y eso. Más allá de, ¿no? Como toda la existencia maradoniana, es la posibilidad de soñar que gran parte, tipo, la fe y la esperanza, bastante criticadas, ¿no? Obviamente se puede criticar a la fe y la estructura de las iglesias y demás, pero realmente la clase popular muchas veces necesita creer que no es un destino su vida y que aunque sea hay una mínima probabilidad de salir de ahí, por más que eso no suceda. Total, es como, sí, una relativa emancipación, aunque sea del imaginario, ¿no? Como de la posibilidad de pensarse de otra manera. que Diego habilita esa situación. Y eso es una forma de libertad. Y también con lo que estabas diciendo antes, Flor, también del hecho que no nos podemos liberar de donde venimos, yo añadiría también algo más en la complejidad de Diego Armando Maradona, que a mí me remite también a la idea que, por ejemplo, uno puede no ser napolitano y devenir napolitano. Entonces hay también esta noción de devenir en este personaje que es tan fuerte, ¿no? Maradona era pobre y se ha hecho un pibe hiper rico. Era argentino y se ha transformado también en napolitano. Entonces es como una simultaneidad de categorías, de pertenencias, de... que también es muy poderosa. Lo digo en italiano rápidamente, que dicevamo prima con Jorge, con Florencia, stiamo parlando sempre di Diego Armando Maradona qui a Radio Caso in diretta tra Buenos Aires e Napoli, e a me una cosa che piace molto di Diego Armando Maradona, parlando della sua complessità, è il fatto che in questo personaggio, secondo me, vediamo, sentiamo proprio le possibilità del divenire. Diego Armando Maradona è nato povero ed è morto ricchissimo. Diego Armando Maradona è nato argentino ed è diventato anche napoletano. Un uomo di sinistra, però in realtà di una sinistra molto contraddittoria. In qualche modo, secondo me, quello che rende anche Diego Armando Maradona un uomo così amato è il fatto che lui non ha mai avuto paura delle sue contraddizioni, che lui nunca ha tenuto miedo delle sue contraddizioni. Entonces esto también lo ha hecho como quizás un personaje más fácil a amar, ¿no? Totalmente. Lo que señalaban también era el papel histórico que jugó Diego, que juega Diego en ese Argentinian Dream, como lo acaba de nombrar, en el que se puede salir, que hay una esperanza, sea, bueno, que después se materialice o no, pero el hecho de poder proyectar un futuro, aunque sea improbable, es una transformación que habilitó esta figura. Sí. Florencia, antes de venir con Jorge, quizás podemos escuchar algunos mensajes vocales que las personas nos han enviado. Sí, creo que sí. A ver si los encuentro, porque ya pasaron muchas cosas. Mira, justo estábamos hablando antes de esta situación familiar, como que a veces el fútbol y Maradona y las emociones que él despertaba eran las únicas que podían habilitar estos encuentros. Y acá tengo, justo escuché recién un mensajito que viene por ese lado, miren. Bueno, la historia es así. Yo, si tengo algo que decir sobre el Diego, es lo que representó en mi vida los ojos de mi papá. Nunca vi jamás un brillo tal como el brillo aquel que vi en los ojos de mi papá contándome la historia del Mundial 86. A partir de ahí se trata todo. A partir de los ojos esos. Mi viejo soportó la colimba. Convivió con el pánico indescriptible de capaz terminar en una guerra, en una isla gélida, sin entrenamiento y sin querer estar ahí. Cada 2 de abril mi papá está triste, tiene la mirada triste, habla poco. Tampoco habla mi papá, que nunca manifestó por qué está triste cada 2 de abril, pero se sabe. Todavía hoy mi papá se queda pegado a la pantalla cuando repiten el segundo gol del Diego a los ingleses, como si tuviera 22 años y el partido que muestra la pantalla se estuviera jugando en vivo. Mi papá aprieta los puños y los labios y abre cada vez más los ojos mientras Diego deja a los ingleses en el camino. Se va despegando del sillón cuando Diego encara al arquero y mientras trastabilla y finalmente grita cuando la pelota entra dando tumbo sobre el segundo palo. Y también, yo lo sé, esconde algunas lágrimas, porque ese gol fue su venganza. un escrito de Andrés Mazzotto. Wow, súper fuerte, la verdad. Aparece otra fecha ahí que en la que claramente repercuten estas acciones de Diego. Pero me parece bueno que venía muy a cuento de lo que estabas hablando vos al principio, de la cantidad de emociones que habilitan el entorno familiar o en cualquier entorno casi cuando hablamos de Maradona, cuando revivimos sus hazañas. Es increíble. Yo no puedo pensar en otra figura así. Tan transversal, ¿no? Porque sí, por ahí en grupos o en comunidades, pero no creo, o sea, por lo menos en Argentina, yo creo que en ningún lado, todos nos sentimos atravesados por lo que pasó antes de ayer. En mayor o menor medida, ¿o no? Todas. Hubo un pequeño texto súper interesante, que a mí me gustó un montón, que para mí marcaba como por lo menos cuál era como el impacto social en cierto sector, que era de un trapero, que ahora tipo está como bastante arriba, que se llama Neo Pistea, no sé si escuchaste. Sí, pero no vi el texto. Que hablaba de esto de permitirse soñar. También César González, que es un director de cine, como me parece que hay algo ahí como re interesante, ¿no? Que como el tema de qué se les roba a las clases populares o qué no tienen las clases populares y qué genera tipo fenómenos como este, ¿no? La posibilidad de esto de pegarla en algún contexto. Y eso no quita, claramente, todo lo otro que podemos encontrar como un profile judicial tranquilamente, digo. Pero también está el castigo al pobre, ¿no? Porque digo, si es el pobre desubicado el que adquiere bienes, contactos y capital económico e inclusive político, el castigo es el doble, porque no debería estar ahí. Y en Argentina se dice bastante, bastante demasiado el concepto de negro de mierda para hablar de esto. Y es súper interesante trabajarlo, porque a pesar de que pueda tener la plata que pueda tener, nunca ha dejado de ser ese negro de mierda. E inclusive como es tan grande la estructura que termina muchas veces teniendo un impacto reflejo, más allá de las relaciones que Diego tuvo con sus parejas, ¿no? Pero terminó siempre teniendo un impacto reflejo con sus parejas, porque si buscamos notas viejas de las parejas de Diego, siempre está el juego de la negra teñida, ¿no? De la ordinaria, de la rubia teñida, ordinaria. O sea, nunca aspiró a lo que debía aspirar por su estatus económico. Mm. Es algo que sucede también con el Kun Agüero. Mm. O sea, ellos dos tienen como hay una línea seguida trabajada desde el periodismo y socialmente respecto a ellos y a su pareja. También sucede con Tevez, claro. Pero con Tevez el castigo es diferente porque Tevez desde cierto sector popular se lo trata como un traidor de clase, que es justamente el quienes tienen libre albedrío para existir y quienes no. Tal cual, quienes pueden decidir sobre sí mismos y sus gustos y sus, sí, tal cual. Es exacto como lo. Es un'altra cosa che secondo me era molto interessante ed è legato a quello che stai dicendo, Jorge, è il fatto che Maradona è sempre stato un disobbediente, e so che questa parola è la stessa in spagnolo, disobbedienza, no? È sempre stato qualcuno che cioè, non ha mai non si è mai piegato come dicevi tu, Jorge, non si è mai piegato a quello che lui doveva essere nel ruolo di un calciatore super famoso e super ricco. E questo è anche un elemento delle ragioni per le quali probabilmente lo amiamo. Florenzia, io ti richiedo una cosa. Riusciamo a cercare l'audio di Carmen? Perché veramente lo volevo mettere e lo volevo mettere ora. Perché anche se è in italiano è legato a quello che Jorge stava dicendo. Vale, Oppure facciamo partire un po' di... Lo voy a buscar. Acá está. ¿Lo escuchan? Esperen, Sí. Aquí está Carmen, creo. Espero que sea Carmen. Ahí vamos. Carmen, no es Carmen. Va, mettiamo un po' di audio comunque, così ascoltiamo. No, lo que estaba pensando que me hizo pensar Jorge Alejandro, es cuando estábamos hablando de Diego como esperanza, como Argentinian Dream y como cosa improbable, pero que se puede imaginar. Y un poco lo nombramos al principio, esa relación de Diego con la religiosidad. Bueno, obviamente se lo llama Dios y la mano de Dios y todo lo demás. Después que les quería mostrar unos audios respecto a eso. Ahora vamos con Carmen. Así hablamos de Carmen. Porque habla de la mano de Dios. No, además. Ahí va. El campionato 1986-87 cominciò subito con una vittoria a Brescia. E fin da quella partita si percepì che la mentalità della squadra era cambiata. Le vittorie si susseguivano una dopo l'altra fino alla partita più difficile contro la Juventus a Torino. Il Napoli perdeva 1-0, ma Diego e i suoi compagni non erano intenzionati a darsi per vinti e dopo poco pareggiarono 1-1. Lo stadio esplose in un boato di gioia. I giocatori del Napoli si guardavano intorno esterrefatti. Non capivano cosa stava succedendo, perché lì a Torino tifavano per loro. Poi ci fu il 2-1 e ancora un boato del pubblico. E allora Diego capì. Erano tutti napoletani, emigranti del sud Italia che lavoravano a Torino e che erano andati lì a tifare per loro. Da Maradona e il Pibe de Oro, di Igor De Amicis e Paola Luciani, collana Grandissimi, edizioni L. Eso fue Carmen. Lo encontré, estuve todo el sí, programa buscando este audio. Porque no habla de la mano de Dios, habla de otra cosa, sí. Habla de cuando Maradona se fue a jugar con el Nápoles a Torino. E che di repente cada vez che marcava aveva come un caos di gioia nel stadio e él al principio non comprendeva, non intendeva e di repente luego a un momento si dio cuenta che los supporters migrantes napolitanos del sur che se iban al norte. De repente hay siempre esa dialéctica norte-sur. Claro, como fue también con este debate respecto a si se podía ser feminista y maradoniana, ¿no? Como que las críticas por lo general vinieron del norte de Italia, si no me equivoco. Claro, sí, pues sí. Alicia no está más allí, pero parece que sí. De todas maneras, sí, pero también volviendo a lo que estabas planteando ahora, también de esto de la sacralidad pagana de Diego Armando Maradona. No sé si Jorge también quiere añadir algo con respecto a esto. Creo que es básicamente la religión y las clases populares tienen una relación eterna, ¿no? Y de hecho, gran parte de la crítica laicista hacia la religión es que la religión mantiene bobas a las clases populares, lo que tiene un factor de verdad, porque no vamos a negar lo evidente, pero que como decía en un principio, muchas veces las religiones es lo único que tienen las personas de clase popular para poder avanzar socialmente. Y creo que ahí es donde engarza el Diego Maradona, porque por eso es Dios, porque viene de la pobreza, juegan, es la analogía del pesebre. El pesebre, la Virgen María, Diego, la Tota, y después la mundanidad, los errores, las falencias, los gritos. Pero a pesar de eso, hay un juego que claramente deviene en un santo popular, como podría ser el caso del Gauchito Gil o la difunta Correa. Es la pobreza armando desde su corazón, desde su centro existencial, un ídolo. El hijo de Dios es básicamente carne de Dios, o sea que es de la que tiene su relación con la pobreza, y Diego ahí está eso. Diego es carne de los pobres que se eleva, y hay algo ahí que va más allá. Es simbólico, es histórico, supera claramente a la existencia del Diego, y lo que produce en la sociedad es más grande que él mismo. Y nadie está obligado a ser un santo. Entonces, eso también es otro tema, ¿no? Las personas no tenemos la obligación de ser buenas, y mucho menos los pobres, porque a los pobres siempre se les exige que sean buenos para darle derechos. A los pobres se reconocen sus derechos como favores cuando en realidad tienen derechos, y cuando faltan a eso son malos pobres. Y ahí es donde se da ese quiebre social. A mí me parece re interesante. Y quizás con el feminismo y otros movimientos sociales, no solo el feminismo, quizás es porque en este momento es el que más tiene un planteamiento político y está más visible, ¿no? Políticamente, pero creo que exigirnos como pureza ética es caer en una trampa. No podemos traicionar nuestros sentimientos. Si se siente, se siente. Y ya está. Después lidiamos. Se ve. Bueno, claramente no avalamos la violencia machista hacia las mujeres. Sabemos que los problemas, no solo en Argentina, sino seguramente en Italia también, las separaciones son los maridos que no pasan la cuota alimentaria, que no colaboran con la manutención de un niño o una niña. Sabemos que el sistema judicial está en contra de las mujeres y siempre duda de la mala mamá, porque las mujeres son las malas madres y los padres son, bueno, padres. Entonces, eso está. Pero creo que no evitar, porque claramente no hay que evitar hablar del tema, de lo que fue el Diego como persona, pero sí quizás tratar de ver cómo impacta en otras vidas. Totalmente. Pero bueno, ahí también es complejo y es interesante cómo el Diego era, no era un pobre bueno, como vos lo describís, y sin embargo se merecía todo lo que tenía. Y esa complejidad me parece que también es interesante para al momento de generar una figura de ídolo, ¿no? Como que no es un ídolo completamente bueno y nadie desconoce esas características, digamos. No está para nada oculto. Eso es muy increíble. Ma lui stesso, quando per esempio rispetto alla suo problema di droga, no? In un'intervista lui stesso disse senza questa cocaina magari non sarei mai riuscito a fare tutti i gol che ho fatto. Cioè aveva una dimensione anche molto lucida sì, che lo rende ancora più unico. E, parlando anche di questa sacralità di Diego Armando Maradona, Giusy ci ha mandato una preghiera urlata, gridata con rabbia e passione dagli ultras di Napoli. Sono la loro signore. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, que no sé si queremos despedir a, bueno, igual te puedes quedar, pero vamos a como liberarte si no querés quedarte. Muchas gracias por participar. Me gustaría que digas tu Instagram o tus redes o cómo seguimos tu trabajo y no sé si de Identidad Marrón también. Mi Instagram es Joma Alejandro o Alejandro Joma en redes sociales y participo de un colectivo que trabaja el tema de racismo estructural en Argentina que se llama Identidad Marrón y el arroba es arroba Identidad Marrón o arroba Joma Alejandro. Bueno, les recomiendo mucho. Gracias muchísimo por la invitación. Sí, mil gracias. Gracias. Muy interesante tu perspectiva. Vamos a escuchar acá un poco de religiosidad pagana. Muchas gracias. Riposo, torna loro signore, risplenda dai, la luce perfetta, la preghiera, va giù. Eterno riposo, torna loro signore, risplenda adesso, la luce perfetta, riposa nel pace. Amen, lo vado a temparare a visti. Insieme! Dai, dai! Per il Dio di Napoli, è un Dio, vero? Il Dio di Napoli, va puro, Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci sentiamo nada. Todo termina en Diego, Diego, Diego, Diego. No se entiende nada al final. No, antes de preparar el programa, Florencia, estábamos viendo eso de la iglesia maradoniana, la chiesa maradoniana. Ay, sí, tengo la página por acá. Que fundada. ¿Cómo es? Existe una chiesa maradoniana. Che praticamente crede nel calcio e in Maradona e che stabilisce l'inizio della terra, del mondo, il giorno di nascita di Diego Armando Maradona. E quindi immagino sancisce anche la fine. O sea che stiamo nel anno 60 después de Diego. ¿verdad? Esattamente, siamo nell'anno 60 dopo Diego, esatto, ben visto. E, non lo so, vogliamo continuare ad ascoltare i messaggi vocali un po' a random? Ay, hay una oración, ¿querés que la digamos? Padre nuestro, Diego nuestro es. ¿Estás en la página? No puedo creerlo, de la Iglesia Maradoniana. Les recomiendo, se llama iglesiamaradoniana.com.ar. No sé cuán en serio es esto, no sé las consecuencias políticas de esta situación, pero hay una oración, una especie de Padre Nuestro a Diego. Diego nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, etcétera, etcétera. Nunca había leído 4 renglones de una oración. Sí. Siempre hay un audio de Billy. Sí, lo tengo también viendo. Habla un poco, cioè, habla de su punto de vista Diego Armando Maradona, y que menciona el hecho que Maradona no es un santo, pero es un dios muy humano. Vamos a escucharlo. Hola, me llamo Billy y vivo en Argentina hace mucho tiempo, y a pesar de que no nací acá, me afectó más de lo que me esperaba la muerte de Diego Armando Maradona. Yo no soy futbolero, ni siquiera me gusta el fútbol. Pero bueno, tuvo que morir Maradona para que me diera cuenta de lo que él representaba. Las personas acá, los varones principalmente, recuerdan el gol del Mundial, pero no solo por el deporte. Él convirtió el deporte en política. Recuperó la alegría y la dignidad del pueblo en Argentina y donde sea que pasó. Con la pelota peleó por el orgullo, le devolvió la dignidad y el orgullo a Nápoles, por ejemplo, vapuleado por sus vecinos entonces. Salió de la villa y nunca dejó de representar a las clases populares. Nunca le fue cómodo a las clases altas y al mundo de las estrellas limpias y pulcras. Diego, por eso para mí, es una estrella manchada, nunca pulcro. Me gusta mucho una frase que anda por ahí que dice: el más humano de los dioses. Es un humano lleno de contradicciones y errores. No era el sueño americano o el portavoz de la meritocracia de las clases altas querían que fuera. Es ese Diego el que consumía drogas, violento, incómodo. Un ídolo que politizó y erró, era un pibe de la villa que nunca agachó la cabeza. Se peleó con Macri y lo que él representaba, y en sus propias palabras le decían un cartonero. No pertenecía a esa clase social, y él nunca traicionó a las clases populares. Tiene un tatuaje de Che Guevara, fue amigo de Fidel, de Pepe Mujica, estuvo en contra de los militares, y es amigo de las abuelas de Plaza de Mayo, peleó con la FIFA y el Vaticano. Por eso es que le dicen negro de mierda y ese estigma nunca se lo sacó de encima. Y por eso aún hoy en día los de arriba le quieren enjabonar la boca, convertirlo en un jugador de fútbol solamente, un gran deportista, vaciarle completamente de contenido político. Pero mucho a su pesar, Maradona es un mito y un ícono, popular en carne viva, lleno de contradicciones, con hechos horribles, pero que nunca dejó de comprometerse con las luchas de su pueblo. No fue alguien neutral para nada. Y por todo eso es que hoy todavía en los barrios populares hay silencio y hay llanto. Y si no podemos empatizar con Maradona como persona, yo sí empatizo y mucho con lo que sufre la gente por haberlo perdido. Y acá se ve en todos lados eso. La tristeza me atravesó, la verdad. Y nunca pensé que me iba a afectar, porque no me importaba para nada Maradona. Y me di cuenta que estaba equivocado. No creo que sea azar que en Nápoles, en las villas, en las ruinas de Siria, donde hay dolor de los pobres, de los que llaman suciedad, se levantan los murales, los carteles y las flores con la imagen de Maradona bien en alto. Yo no nací en las clases populares de acá, pero me doy cuenta de lo que se murió. No fue solo un jugador de fútbol, murió un pedazo de sueño en carne de los injusticiados del mundo. Qué hermoso mensaje, están llegando un montón, teníamos algunos guardados desde antes, así que voy a seguir reproduciendo algunos de los mensajes de nuestra audiencia. ¿Te parece bien, Ana? Muy bien, escuchamos altri messaggi vocali que ci hanno mandato le persone all'ascolto. Vale. Buonasera, grazie per avermi invitato alla vostra radio, Radio Caso. Che saluto a tutti gli amici ascoltatori. Ebbene, anch'io sono nato in Argentina, esattamente a Lanús, e abitavo a San José fino all'età di 8 anni e poi siamo ritornati in Italia. Già da laggiù essendo figlio di italiani, già tifavamo del Napoli perché c'era un altro grande che si chiamava Omar Sivori, che faceva sognare tutta Napoli negli anni 60. Poi abbiamo vissuto un po' alti e bassi, calcisticamente parlando, affinché nel 1984 non arrivò a Napoli il nostro messia, il nostro grande Diego Armando Maradona, che tutto il popolo amato, sia per le sue prestazioni calcistiche, extraumano, e soprattutto per quelli che ne parlano un po' senza conoscere l'uomo, e posso anche che sono stato presente, che era un uomo d'animo, un uomo sensibile, un uomo che faceva tanto per i napoletani sul piano umano. E chiunque bussasse quella porta non ha avuto mai di tornarsi indietro a mani vuote. Diego era un grande anche sul piano umano, quindi chi ne parla male è solamente chi non lo conosce e chi è invidioso soprattutto dell'uomo, del campione, del calciatore. Napoli perde un pezzo della nostra storia, perde un pezzo di tutti noi, perché Maradona, come cantava una vecchia canzone, ci ha disufrati di tutta questa città appena arrivò a Napoli. Quindi ha difeso sempre i napoletani dal predominio e dalla prepotenza del Nord Italia. Si è esposta sempre in prima persona, è stato sempre umile nei riguardi dei suoi compagni di squadra, non ha fatto mai pesare la sua superiorità tecnica nei riguardi degli altri calciatori. Era un messia anche per loro. Quindi perdere oggi un pezzo del nostro cuore in una città già mortariata e ferita è ancora una coltellata che ci viene data alla nostra passione, e al nostro amore per la città e soprattutto per l'Argentino. E Diego era umile. Ha fatto tante cose caritevole, tante cose caritevole che voleva che non si sapesse, perché non dovevano passare come una cosa fatta di facciata, come fanno gli altri, ma lui lo faceva nell'animo. Diego era questo, Diego era tutto lui. Incredibile. Non lo dimenticheremo mai e Ci acaba di scrivere Seba lo Rey. porteremo sempre nel Posso nostro cuore. escucharlo? Forza Napoli, Forza forza Argentina. Napoli. Viene dalle magre Americhe del Forza Sud, sudice di Argentina. Nord, viene dalle tirannie fratricide, il più felice guizzo, guappo e prestigiatore del calcio di ogni tempo. Maradona, Armando Diego, argentino come il tango, è venuto a far sgranare gli occhi e spellare le mani dagli applausi al vecchio continente. Il suo piede sinistro è il più sofisticato strumento di precisione della geometria e geocologia del calcio. Venuto a vincere? Sì, anche quello, ma non quanto poteva. Senza una quota di spreco non si dà grandezza. Grandezza è anche infischiarsene dei risultati, delle somme tirate. Badare di più invece all'attimo felice del palleggio, allo scatto, al passaggio che lascia bocca aperta. Non è stato solo talento. Maradona fu atleta in avanzo sui tempi, allenamento doppio che metteva una molla dentro le gambe corte, lanciate a mulinello più che a corsa, a divorare spazio. Napoli l'ha avuto nei suoi anni Ottanta, nel tempo in cui cambiava i connotati, si staccava dal sud per agguantare un lembo di nord. Napoli ha avuto Maradona non come re, ma come anello al dito, quello nuziale. Il re spetta una città monarchiche, Roma e Torino. Henri De Luca, Napolide, edizioni Dante Descartes, 2006. Qué hermosa voz. No sé si entendí algo de lo que dijo, pero me encanta que se mezclen todas las voces. No importa entender todo. De todas maneras, Diego está entendiendo todo, porque Diego estamos hablando en sus idiomas. El italiano, con l'accento napolitano e l'argentino. Bueno, entonces sigamos enviándole los mensajes a Diego, que desde algún lugar lo está escuchando. Hola Anna, hola Florencia. Allora, hola. Per celebrare Diego vogliamo condividere con voi un ricordo bellissimo risalente al 4 febbraio del 2017 a Buenos Aires. Adesso ve lo racconta Roberto. Sì, eravamo appena arrivati a Buenos Aires, eravamo in viaggio, stavamo facendo il Sud America, neanche il tempo di arrivare a casa, abbiamo lasciato le valigie e la prima cosa che ho cercato è stata il Napoli Club di Buenos Aires. L'abbiamo trovato, noi eravamo a Palermo, quartiere Palermo, quindi era vicino casa, siamo andati subito, c'è la partita Bologna-Napoli, tra l'altro partitazzo perché abbiamo vinto 7-1 con tripletta di Hamsik, tripletta di Mertens, un gol di Insigne e un gol di Calleion, quindi tutto l'attacco del Napoli a segno ed è stato bello perché Eravamo a casa di Diego, eravamo a casa perché poi ci hanno accolto i nostri amici napoletani, cioè erano misti sia ragazzi di Napoli che ragazzi argentini cresciuti con addosso la maglietta del Napoli. Quindi è stato bellissimo perché poi ci siamo incontrati anche i giorni successivi e penso che questo per noi sia il modo migliore per omaggiare Diego, che ha unito due popoli, due culture e ci fa sentire sempre, sai, mai soli e a casa, esatto. Sì. Ciao Diego! Ciao! Ciao! Ciao Diego! Lo diciamo anche noi. Loro erano Imma e Roberto. E voilà. Seguimos. Di Joaquimi, esperienza maradoniana. En el año 93, cuando el Diego vuelve a jugar a la Argentina para prepararse para el Mundial, juega a Newell's, un puñadito de partidos, y mi viejo, que no era muy de llevarme a la cancha, me agarra y me dice: vamos a ver al Diego, que esto se lo vas a poder contar a tus nietos. Así que fuimos a la cancha Independiente, cuando volvió oficialmente el Diego, bueno, un partido ganó Independiente, mucho el resultado igual no importaba. Yo soy Independiente. Tiró una rabona mágica, casi termina en gol y fue increíble. Creo que desde lo sonoro lo más impactante son los cantos en la cancha de Diego, Diego, libre, libre. Diego. Cómo se diseminaba por todo el estadio, sin importar las hinchadas, o sea, un unísono general. Se me pone la piel de gallina de acordarme. Creo que eso es una de las cosas más tremendas, más allá de sus virtudes como artista del fútbol, en lo que generaba sonoramente en los estadios. Me acuerdo otra vez que fui a ver a la selección, que no jugaba Maradona, el único canto que unificaba todas las pequeñas partículas de hinchada eran los cantos de Diego, digo. Increíble. Y después fui otra vez a verlo a la cancha también con mi viejo, cuando estaba en Boca ya, contra Argentinos Juniors, uno de sus últimos partidos, que ganó Boca 4-2, metió un gol de tijera hermoso. Pero me acuerdo que esa vez fui a la tribuna de Argentinos, porque no había más entradas, entonces no pude gritar los goles, fue un poco más aburrido, pero hermoso escuchar a toda la Bombonera latiendo y gritando. Bueno, un bostero claramente. Igualmente me encanta esa imagen que vimos ayer, ayer y que vemos siempre cuando se habla de Maradona, que es la única personalidad que puede hacer como generar abrazos entre personas con remeras de River y remeras de Boca. La Bombonera es la cancha de Boca, Ana Raimondo. Me pregunta acá por mensaje privado. No, questa foto è arrivata anche in Italia. Ah, mirá, también. Del tifoso del Boca che si abbracciava piangendo al tifoso del River. Me encantó la reflexión sonora. Cioè, sono delle squadre nemiche, no? Exacto. También tenemos a Radio Caso, escriben muchos artistas sonoros por razones obvias. Acá tenemos un mensaje de Ezequiel Abregu, que no sé si tiene algo que ver con el sonido lo que va a decir, pero lo quiero escuchar. Hola, mi nombre es Ezequiel Abregu y quiero homenajear a Diego Armando Maradona contando dos cosas, ambas muy transversales en mi vida. Yo no soy futbolero, pero sí amo a Maradona, debo confesarlo, y siendo un niño entendí por primera vez la pasión como sentimiento humano a través del fútbol. Y el 22 de junio, pero de 1986... yo tenía 7 años ese día de mi cumpleaños. Argentina jugó contra Inglaterra en el Mundial de México. Y bueno, mi cumpleaños no existió ese día, pero yo sentí algo especial al ver ese partido porque descubrí la pasión que Diego produjo y produce en los argentinos. Y en ese momento, siendo la mejor versión de sí mismo en ese Mundial. Y en ese partido tan especial en particular, aunque en realidad lo comprendí mucho más adelante, ese descubrimiento a centrar el fuego de Diego en mi vida y que me acompaña hoy en día, realizar la actividad artística con entrega, compromiso y pasión guarda una relación para mí directa con ese sentimiento, y creo que si no estuviese esa pasión por el sonido, es decir, ese escupir fuego de uno mismo, no tendría sentido mi actividad. Y lo segundo es que, bueno, en mi vida claramente fui influenciado por una variedad de artistas realmente, y en el podio, en mi podio al menos, de grandes influencias siempre está Diego Maradona, y desde mi percepción Diego es una onda de sonido puro. Hoy mismo me lo imagino como un sonido largo y oscilante, y que suena fuerte y que vibra para abrazarte. Mil veces escucho y veo las obras de mis referencias y no me canso de asombrarme, y lo mismo me pasa con Maradona, viendo su historia, sus carreras, sus jugadas, sus goles, y no estoy hablando de un amor fanático y ciego, más bien me refiero a cuando te encontrás con ese amor cálido y choqueante que uno siente cuando se está junto a un ser que saca lo mejor de vos. Bueno, quisiera hacer un dron infinito que se llame Diego Armando Maradona, gigante, que evoque la simpleza y la grandeza, algo equivalente a lo que hizo Diego con una pelota. Realmente quisiera hacer un sonido que aumente su intensidad y ascienda infinitamente. Muy bueno, esperamos ese dron infinito de Ezequiel Abregu prontamente para conectarnos de manera intensa con Diego Armando Maradona. Tenemos un mensaje más en italiano, a ver si lo encuentro, si acá está. Che del sud, sudite di nord, viene dalle tirannie fratricide il più felice guizzo, guappo e prestigiatore del calcio di ogni tempo. Maradona, Armando Diego, argentino come il tango, è venuto a far sgranare gli occhi e spellare le mani dagli applausi al vecchio continente. Il suo piede sinistro è stato il più sofisticato strumento di precisione della geometria e geocologia del calcio. Venuto a vincere? Sì, anche quello, ma non quanto poteva. Senza una quota di spreco non si dà grandezza. Grandezza è anche infischiarsene dei risultati, delle somme tirate. Badare di più invece all'attimo felice del palleggio, allo scatto, al passaggio che lascia bocca aperta. Non è stato solo talento. Maradona fu atleta in avanzo sui tempi, allenamento doppio che metteva una molla dentro le gambe corte, lanciate a mulinello più che a corsa, a divorare spazio. Napoli l'ha avuto nei suoi anni 80, nel tempo in cui cambiava i connotati, si staccava dal sud per agguantare un lembo di nord. Napoli ha avuto Maradona non come re, ma come anello al dito, quello nuziale, il re spetta una città monarchiche, Roma e Torino. Henry De Luca, Napolide, edizione Dante Descartes, 2006. Tiene una voz tan increíble que no me importa escucharla muchas veces. Ho ascoltato due volte, ma probabilmente è stato il caso, perché magari a Diego piaceva ascoltarlo di nuovo, però questo in realtà è un estratto di Henry De Luca, che è uno scrittore napoletano, letto da Giancarlo Di Maio qui per noi, per Napoli Buenos Aires, un solo corazon, che state ascoltando dal vivo qui su Radio Caso con Florenzia Curci e me medesima Anna Raimondo. Stiamo volgendo alla fine di questo programma che è nato con molta spontaneità e che con molta spontaneità si è sviluppato. Speriamo con la complicità anche di voi all'ascolto. Non sappiamo se siete ancora lì, ma se siete ancora lì vi vogliamo ancora più bene. Stava dicendo che casi stiamo casi volviendo, llegando al final de nuestra emisión espontánea. Algunas cositas muy mágicas que no quiero que nos perdamos, pero ya casi, ya estamos terminando esta transmisión Napoli-Buenos Aires, un solo corazón con Anna Raimondo y Florencia Curci, quien les habla. ¿Escuchamos a Francesco? Ok, en italiano, allora. Guarda, la morte di Maradona è stata veramente una strana sensazione. E infatti Maradona, nonostante, come dire, io non l'ho mai visto giocare, né l'ho visto di persona, né negli ultimi anni prestavo molta attenzione in realtà a quello che facesse lui, al ricevere la notizia della morte è stato veramente qualcosa di strano, giustamente come diceva un amico mio, come se fosse una persona di uno di famiglia, no? Con Maradona, da tifosi del Napoli, quali siamo, io e il mio amico, tanti miei altri amici, no? Da tifosi del Napoli siamo cresciuti con le sue gesta, con i suoi gol, e quindi per noi è sempre stato durante tutta la vita presente nei suoi video e nei ricordi di quei momenti storici che ha fatto passare alla squadra, diciamo, la squadra del cuore. Ma poi non solo quello, io mi fermavo a pensare e mi intrattenevo proprio nel pensare alla felicità che questa persona ha fatto vivere, ha portato a persone a me molto care, come possono essere i miei zii o mio padre, che è un altro tifoso del Napoli, che anche lui, insomma, è morto, e mi ha fatto venire in realtà alla mente questi momenti di gioia che ha fatto passare a queste persone a me così care. E mi ha suscitato realmente una grande tristezza. Cioè, il giorno della morte di Maradona io sono andato a dormire con un groppo in gola. È stato veramente una cosa molto strana. Comunque è chiaro che Maradona calcisticamente era già morto da tanto, come ho letto anche sui giornali, evidentemente adesso è morto la persona e inizierà il mito, così come già era iniziato il mito del calcio. Adesso definitivamente resterà nella memoria, nelle memorie di tutti quanti, non solo dei tifosi napoletani o argentini, ma nelle tifosi di tutti gli amanti dello sport, come un vero e proprio mito che non potrà mai più ripetersi. Chi è Francesco? Francesco? Questo era Francesco, che ancora una volta sottolinea quanto Maradona fosse un familiare, come uno di famiglia. Alguien Diego era como alguien de algo casa, que, ¿no? Que ya lo hemos fue recurrente, recurrente en la transmisión de hoy. Puedo aprovechar este minuto para mandar un feliz cumpleaños muy especial a Alma Laprida, colega de Radio Caso, que está festejando en este momento con una torta gigante y creo que medio roja por lo que vi en un video. ¿Podemos cantarle el feliz cumpleaños? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo estamos? Buen cumpleaños, Alma, por supuesto. Y como estamos en temas de saludos, también lo digo en español. Quiero saludar con un beso muy gordo a Tomás, que está escuchando todavía. Un beso muy gordo, Tomás. Gordo. Es un ascoltatore fedele, quindi si merita un bacio grande. C'è Roberta anche che ci sta ancora ascoltando e che noi salutiamo, c'è Alessia, c'è Carmen, c'è Giusy, c'è Imma e Roberto anche che ci stanno ancora ascoltando. E a questo proposito, Florenza, bueno, posso así como fare... Les, Así como los agradecemos, les pedimos disculpas por una serie de inconvenientes técnicos que tuvimos que sortear, pero esto es muy espontáneo, muy casero. Estoy en el living de mi casa, así que sepan disculpar. Espero que igualmente Diego nos haya escuchado toda la transmisión. Claro, eso es lo que deseamos, lo más, lo mejor. Io volevo leggere un messaggio che c'è scritto Giuliano Alessio. Bueno, léenos. Sì, è un messaggio scritto, spero leerlo bien. Es una traducción que él ha hecho del español al italiano con el Facebook, así que vemos lo que lo voy a leer y vemos. Quindi, Anna Raimondo, ciao. Prima di tutto voglio dirti che provo un grande dispiacere e grazie per questa iniziativa. D'altronde vi dico che io sono argentino, con una madre cilena, padre napoletano. Abbiamo vissuto a Praiano, un paese vicino a Napoli, per 2 anni. Infatti, ci siamo arrivati 3 mesi dopo l'arrivo di Diego Maradona a Napoli. Ero piccolo, avevo 8 anni. Nella piccola città mi chiedevano molto su come giocava Maradona, se era bravo, se fosse Diego, ma non sapevo nulla di come suonava. Suonava penso che sia giocava, la traduzione era un po' ingannata. Quindi non sapevo nulla di come lui giocasse, era a Barcellona da un po'. Sono diventato subito un tifoso del Napoli, grazie ai miei compagni. Il tempo passò ed arrivò il Mondiale in Messico 86, lì ci divertimmo molto. Diego e la squadra argentina. Aneddotica, posso dirti che il giorno in cui l'Argentina vinse il mondiale, di notte, in Italia, mia madre mi fece una bandiera con una foto di Maradona. Mi sollevò e mi legò al cofano della macchina e facemmo il giro della città di Praiano suonando il corno. Ovviamente unita a noi nelle celebrazioni. Che gioia, quanta felicità. Poi pizza dalla Taverna del Leone. Poi, mesi dopo, siamo tornati in Argentina. Io con un immenso dolore nel cuore per aver lasciato quei compagni di scuola e quella gente e quella bellissima città. L'anno successivo, 87, nell'inverno argentino, ricevetti una cartolina dal Belgio. Mi fu spedita da Paolo Irace, amico ed ex compagno di scuola di Praiano, salutandomi e comunicandomi che il Napoli aveva vinto lo scudetto. E ho provato la stessa gioia e felicità di quando l'Argentina è diventata campione del mondo un anno prima. Grazie Diego e noi ringraziamo Giuliano Alessio. Hermoso. Ani, nos tenemos que despedir porque quiero al final poner un audio que nos envió Francisco Godínez Galay, que estuvo ayer en la despedida de Diego Armando Maradona en las calles de Buenos Aires, y tenemos un relato que él hizo por allí, y después, por supuesto, nos vamos a despedir con música y buenos deseos. Estoy muy contenta de hacer esta transmisión con vos, ya cansada también. Está anocheciendo en Buenos Aires, son casi las 8. En Napoli, me imagino que deben ser casi las 12. Seguimos entonces. Chao, Ani. Chao. Escuchamos el mensaje de Julián antes. Dale. ¿Cuál es Julián? Perdón. Vamos con... Ahí va. Disculpen los problemas nuevamente. Jueves 26 de noviembre de 2020, 1:30 de la tarde. Estoy en el obelisco, la bandera de la ciudad a media asta. Estoy yendo a la Plaza de Mayo a despedir a Maradona. Intentaré contar lo que veo. Con el tema Maradona quizás pueda entenderse, pero nunca puede explicarse. Estoy caminando por Diagonal hacia la plaza para despedir al 10. ¿Cuántos metros está Perú? Sí. Dobla a la izquierda y ahí está la cola. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. estoy viendo la casa rosada, la bandera a media asta, y lo que veo es una fiesta triste. ¿Viste cuando bailás una canción de llorar? ¿O cuando recordás algo con una sonrisa y una lágrima? Es eso, hay mucho color, muchos sonidos, ruido. Hay congoja, silencio también. Es como que se ha destapado unas ganas de estar juntos, juntas, con otros, con otras, de entender todo esto en la calle y en esta plaza, en la Plaza de Mayo, la plaza del pueblo, en ese balcón que hoy veo con una cinta negra, por donde salió alguna vez Diego mostrando la Copa del Mundo. Qué diferente todo. El registro de Francisco Inés Galay. Qué emozionante estar terminar ahí, con, ¿no?, Buenos Aires. Che è molto bello il fatto che abbiamo cominciato con un'intervista del Diego qui in Italia qualche anno fa in un programma che si chiamava Che tempo che fa? Non mi ricordo il titolo, comunque era un'intervista con Fabio Fazio. Abbiamo ascoltato tanti napoletani qui da Napoli e ora e tanti argentini a Buenos Aires, e ora finiamo con questo audio che ci riporta laddove Diego totalmente muy hermoso. Bueno, debemos despedirnos. Sono mezzanotte precisa. Hemos hecho algo muy casero, pero muy puntual. Hemos empezado a las 10 y estamos acabando a la medianoche. Y no lo sé, Florencia, yo te quería agradecer muchísimo por este intercambio tan espontáneo y tan acogedor. Necesitaba hacer algo yo, así que gracias a vos por la propuesta. Y gracias a Radio Caso para acoger la emisión. Sí, gracias a Radio Caso por aguantarnos todavía. Gracias a todas las personas que están a la escucha, porque cuando hacemos radio sabemos que sin la persona a la escucha la radio no existe, y quindi vi ringraziamo tantissimo per stare lì ad ascoltarci e averci ascoltato fino ad ora. E grazie ovviamente a tutti gli invitati e le invitate, ad Alicia Izzo, a Marco Elardo, a Marcello Anselmo, a Julian. Puoi dire tu, Florencia, il nome di... Solo puedo decir gracias a todos. Gracias a todos y a todas las que participaron, escucharon, siguen escuchando. Y a vos, Ana Raimondo, por todo esto. Y a te, Florencia Pucci. Chao, Diego. Chao, Diego. Saludo. ¿Cómo es? Espera. Un saludo verdadero. Hacemos un saludo en directo. Sí. Estamos en directo. Un saludo. Chau, chau, chau. Espera, que te digo. Okay, vos me decís. Nos dejamos con un concierto en vivo. Espera. se, ahora no ci sta sentendo per adesso nessuno, Florenza, ora non è nadie, okay, non ti escucho nada, no te escucho pero, nada, pero no, no es verdad, tenemos a alguien que nos está escuchando, hacemos un chao a todas las personas que nos han escuchado y un chao a Diego Armando Maradona. Dale. Somos feministas y te queremos. Chao a todos los que están. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, Flo. Chao, linda. Este programa fue presentado por Radio Caso.